Doritos, signora? Vuole una caramella? No, se vuole una caramella me lo dica, eh? Ok. E la signora si è addormentata. Signora? È uno spettacolo di balletto questo. Signora? Signora? Shhh! Lo so, ma è la signora esa. Ma che stanno a fare? Balletto, stanno prendendo il ritmo. Scusate. Signore? Perché venite a teatro? A vedere se non vi piace. Io mi alzo da qua perché mi distraggono tutti questi russatori. Sono dei ballerini che stanno danzando in questo momento e cioè. Ah, no, pensavo fosse finito, scusate. Quanto dura? Muoia. Ecco. La caramella. La prenda. Volete uno non sapesse che stiamo guardando un balletto, danza moderna, diciamo così, penserebbe che stiamo assistendo al montaggio della scena in un teatro dove praticamente stiamo per fare lo spettacolo. Il signor accanto finge interesse per questa performance. Il regista è un certo Papadopoulos. Siamo al Roma Europa Festival, ecco, adesso ve lo posso dire. No, senza imbarazzi. Sì, però qui il rumore sta aumentando. Vi posso solo dire che questa è la musica dello spettacolo. I ballerini hanno ballato per un'oretta su questo tipo di sound. Spettacolo, nonostante quello che possa sembrare da qui, era bellissimo, loro bravissimi. mi rendo conto che sentendo solo il suono è difficile, no? Immaginare un movimento. E allora, visto che vi è difficile, vi aiuto io. Allora, questo si chiamava Alto e Bagnato. Noi siamo un paese che conosce molto bene l'inglese e non sappiamo neanche pronunciare le parole. Adesso volete un po' di crepe? Volete veramente delle crepe? Cioè, veramente? Ah no, è scritto creep questo. Poi si legge creep. E quello di primo, alto e bagnato, high and dry. E come si traduce? Ma sta zitto, faccio sentire la musica. Siamo alla radio testa. Stupido sei. Okay, scritto crep. Non si legge creep. Ma voi chiamate tutto in inglese, tutti i programmi li chiamate in inglese. On the go, on the land, on the low, on the lì. Poi dopo. Per esempio questo è sta giù, no? Non è sta giù? Let down, non è stare giù, sta giù. Sta giù. Non è così? Forse in un altro modo espressa. We'll be right back. letdown si traduce in italiano come deludere o delusione, ma il significato varia a seconda del contesto. Può anche significare abbandonare, tradire, lasciare giù, o in senso letterale abbassare, ad esempio una persiana o una gonna. Let Down dei Radiohead racconta l'alienazione della vita odierna e qualcuno dice che diventa virale, è diventata virale su TikTok. Radiohead, Let Down. Alienazione sì, ma dai computer, dalla tecnologia. Un album che è uscito nel 1997. Cambio di suoni, la voce di Tom York. Johnny e Colin Greenwood. So tired, happy. Radiohead da un album che si chiama Ok Computer, no, senza la S, Ok Computer. Ma vediamo che cosa ha riportato la canzone che abbiamo sentito prima, Let Down, in cima alle classifiche in questo momento. Abbiamo detto che c'è stato il ruolo importante di TikTok, ma qualcuno scrive che ciò che ha riportato appunto Let Down sotto riflettori è stato il social TikTok. Gli utenti hanno scelto il pezzo come colonna sonora per video surreali e malinconici. Dai selfie generati dall'intelligenza artificiale raffiguranti coppie immaginarie, con oltre 4 milioni di like, e a clip intime in cui utenti raccontano emozioni profonde. Questo fenomeno ha spinto streaming e vendite a livelli tali da far schizzare il brano in classifica, dando una seconda vita a un tesoro nascosto della discografia della band britannica. Let Down. E invece, sempre da questo album, vi faccio ascoltare, anzi no, passiamo a un album d'esordio, un album tra i primi, Fake Plastic Trees. A green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. She bought from a rubber man in a town full of rubber plants to get rid of itself. The world's around. The world's around. To do surgery. it wears me out. It wears me out. And if I could be who you wanted, if I could be who you wanted. Radiohead sono tornati a suonare in Italia poco tempo fa e molti hanno preso treni e macchine per andare in una splendida città italiana a sentire un concerto di questo meraviglioso gruppo. Dopo gli U2, secondo me, una band straordinaria dal vivo. Volevo scandagliare ancora il significato del successo di questo brano, Light Down, che musicalmente scivola via così, no? E invece nel testo ci sono delle implicazioni. Questo è il gruppo ripreso dal vivo. Questo brano è evidente che i conti non tornano, infatti si chiama 2 più 2 uguale 5, tratto da un live all'Airscore Theatre di Londra. Tutto si è fermato, perché si è fermato? Ah, ecco! La canzone Let Down, come tutto l'album che la contiene, cioè Ok Computer, è una canzone che riflette sulle conseguenze psicologiche e sociali della vita moderna. Il suo significato sta nel provare a trasmettere il senso di alienazione e delusione generato dalla routine urbana, trasformando immagini quotidiane in simboli di vuoto e oppressione. Nel primo verso, Transport, Motorway and Tram Lines, c'è l'evocazione dell'atmosfera. Infrastrutture e viaggi senza meta sottolineano una sensazione di spostamento continuo ma privo di scopo. Come se ci si sentisse sempre fuori posto. Poi c'è la metafora della fragilità umana, con l'insetto schiacciato per terra come un individuo schiacciato dalla società di massa, perdendo consistenza e voce. Nonostante il pessimismo dilagante, la strofa finale introduce l'idea di una trasformazione liberatoria, un auspicio di speranza che rompe la monotonia della disillusione. One day I'm gonna grow wings. Tom York, leggiamo sempre da questo articolo che abbiamo trovato su internet, su Radio Capital, Tom York ha spiegato che durante la registrazione di Let Down ha cercato di eliminare gran parte dell'emotività della sua voce, preferendo i primi takes per creare una distanza tra sentimento e interpretazione. E questo approccio riflette intenzionalmente il tema dell'alienazione, rendendo l'espressione vocale più fredda e distaccata. Torneremo sul Karma Police che stiamo ascoltando in sottofondo. Ma io tornerei a questo punto a riascoltare Let Down. Stavolta senza nessun commento da parte mia. E ci sentiamo la versione rimasterizzata. Thank you. Radiohead, Paranoid Android, ma Thom Yorke ha fatto anche un lavoro da solo e qualche tempo fa lo abbiamo visto anche dal vivo. Sentiamo Traffic, tratto da Anima, non proprio un album radiofonico, ma dai suoni molto interessanti. Questa è Samarcanda Digital Network, io sono Edit. Siamo tornati in Radiohead da Thom Yorke, ancora Thom Yorke con il Radiohead, e questa è Subterranean Upside Alien. Molto interessanti radiofonicamente Radiohead, non solo nell'impianto di casa. E chiudiamo questo ripasso attorno alla musica di questo straordinario gruppo Radiohead . Difficile trovare un brano con cui chiudere, ma forse c'è un brano che chiude un album. Il brano è True Love Waits. Tratto da un album che si chiama A Moon-Shaped Pool, Radiohead. Yeah. si capisce chi si accanisce al pianoforte, al piano di sopra, ma cerchiamo di uscire quasi in punta di piedi dall'orbita di Radiohead. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me, let me, let me, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. Un altro brano che mi ricordo con questo coro di mandolini è Campo dei Fiori di Antonello Venditti. Questi sono gli Smith, anzi erano gli Smith con Please Please, e la musica ci viene in aiuto perché sono straordinariamente gli Portishead, dai Radiohead agli Smiths a Portishead. radiosamarcanda.it, non ce n'è altri. Screens bear the facts, assume the die, and the vows, no need. Porch Shed, Sir Times. Io penso che anche il brano che sta per arrivare meriterebbe una totale riscoperta, così come è accaduto a Radiohead, perché è un brano veramente particolare, bello, musicalmente speciale. E poi lei è una delle più grandi performer anche dal punto di vista dei video. I suoi video sono straordinari. Lei è Björk. Venus as a boy. He's Venus as a boy. una serie di suoni prodotti probabilmente dai computer, dai sampler, ma ha costruito un disco bellissimo. Quelli dopo si sono un po'... sono diventati un po' eccessivamente pomposi, ha perso un po' di freschezza Björk, secondo il mio modesto punto di vista. Comunque sempre dischi di grande, grande qualità. In quel periodo c'era un'altra artista che aveva fatto un suo album molto bello, ma poi a un certo punto tirò fuori un brano insieme a Yusundur, e questo brano si chiamava 7 Seconds, e lei è Nene Cherry. Se è la figlia di Don Cherry, forse sarà Nene Cherry. Perché hai detto Cherry? Per fare il figo alla radio. Vabbè. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leurs couleurs pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. 7 seconds away, just as long as I ha un andamento che mi ricorda un po' This Is Not America, Pat Metheny e David Bowie. Nene Cherry. Yusundur. Just as long as I stay. Bjork, Nene Cherry, la cantante dei Portishead. Siamo partiti dai Radiohead e adesso approdiamo nel mondo di un'altra cantante particolare. Lei si chiama Lauryn Hill e l'andiamo a cogliere dal vivo. I've ever known was like the kiss on a collarbone, soft caress of happiness. The way you walk, your style of dress. I wish I didn't get so weak. Ooh, baby, just to hear. Makes me argue just to see how much you're in love with me. Ooh, she's like a queen, a queen upon her throne. Was a sweetest thing I know. When you walk away, so I tell you leave when I mean stay. Warm as the sun, dipped in black, fingertips on small of my back. More valuable than all. Your precious, precious, precious, baby, baby, dark skin tone. It was the sweet, sweet, sweetest thing I've known. It made me say, yo, Lauryn Hill dal vivo, Mrs. Lauryn Hill. Restiamo ancora dal vivo, questo album che la ritrae dal vivo, e passiamo a un brano che si chiama When It Hurts So Bad. Wasn't returned. Found out the man I died for. He wasn't even concerned. I tried and I tried and I tried to keep him in mind. thought I could make it right. But I love your hand. You hear what I'm saying? And if you ever been in love, you'll understand if what you want might make you cry, what you need might pass you by. Straordinaria, Mrs. Lauryn Hill. E adesso passiamo a un gruppone enorme. Sono tantissimi musicisti, tutti riuniti attorno a un direttore d'orchestra. Hanno messo su questa orchestra dedicandola a Charles Mingus. E infatti l'orchestra si chiama Mingus Big Band. Questo è il brano che dà il titolo all'album, è probabilmente tutt'altro che radiofonico. Tonight at Noon. Questa è Radio Samarcanda, io sono Edith e questa è la Big Band dedicata a Mingus. L'orchestra di Charlie Mingus, anzi la Mingus Big Band. Mingus non c'è naturalmente, ma loro suonano alla grande e hanno fatto questo album che è abbastanza bello qualche anno fa. Un altro brano da questa Big Band. Nails tap on the counter, steps echo and fade. Is that a face in the window with no Invisible Lady? Ma a me sembra di riconoscerla questa voce, non sarà mica Elvis Costello? È probabile, no? The naked flame flickered, clothes lie where they Forse no. Come. That's one hell of a big torch to carry along. She might brush your face with the hem of her gown, but it's hard to wake up with your silly cracked crown. It's an empty shot glass, a shocking blue pane. The chamber rolled vacant and loaded again and again and again and again and again. Return to me, invisible lady. Where are the rewards for all of the promises I made? Oh, where have you gone? And who on earth do I have to thank? The sheet billows blank. I fell for the invisible lady. I still sing the words of all of the songs that she gave me. Ribbon stretched tight, but every time that I start to tie, the key won't seem to strike. A me sembra veramente la voce di Elvis Costello. Dice, ma non potresti guardare sui credits? Sì. Però non mi va di andare a scartabellare su internet, voglio avere la copertina del disco in mano. Ma sì, sì, sì, Elvis. Ha proprio un modo di cantare inconfondibile e... Pensando a Elvis Costello e a una big band come quella, come la Mingus Big Band, mi viene in mente naturalmente Diana Krall, che sicuramente sarà stata presente alle incisioni, no? Eccola qui. Il pezzo è tratto dal vivo a Parigi e si chiama I Love Being Here With You. North and South, they're both the best. But I only love to go there as a guest, 'cause I love being here with you. I love the sea, I love the shore, I love the rocks, and what is more, with you there'd never be a bore, 'cause I love being here with you. Singing in the shower, laughing by the hour. Love is such a crazy game. Love all kinds of weather as long as we're together. I love to hear you say my name. I love good wine, fine cuisine, candlelight, I love the scene. But baby, if you know just what I mean, love being here with you. Thank you. Jeff Hamilton alla batteria, John Clayton al basso, Anthony Wilson alla chitarra, Diana Krall al pianoforte. I love Ella singing a Basie band was swinging, cause there's something else you know. They knew how to play, they knew it safe, they just wound up, let it go. I love a thrill, a Paris show, I love to kiss you on your nose. Just let me say before I close, I love being here with you. Pare che questo sia il primissimo album dal vivo di Diana Krall, e siccome l'atmosfera mi piace molto, restiamo su questo, sui solchi di questo album. I have a feeling, Let's Fall in Love, Diana Krall dal vivo a Parigi, insieme a Anthony Wilson alla chitarra, John Clayton al basso e Jeff Hamilton alla batteria. Questa è Samarcanda Digital Network. Io sono Edith. Sentimental alibi, but I adore you so strong for you. Why go on stalling? Love is calling. I am falling, why be shy? Let's fall in love, why shouldn't we fall in love? Our hearts are made for realistic chance, why be afraid of it? I'll tell you why. Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make it good. We might have been meant for each other, to be or not to be, let our hearts discover. Let's fall in love, why shouldn't we fall in love now? Is the time for it while we are young? Let's fall in love. fall in love, why shouldn't we fall in love now? Is the time for it while we are young? Let's fall in love. Let's fall in love. Bravissima come cantante. Bravissima come pianista. Let's fall in love. Poi ha continuato a fare altri album dal vivo, ne ha fatto uno credo in Brasile, dove fa dei classici. No, veramente molto preparata, ma soprattutto ha vissuto una vita in mezzo ai grandi musicisti che frequentavano la sua casa, e quindi è chiaro che qualcosa poi entra nelle vene, no, di questo mondo che ti circola intorno. Beh, questo è un duetto famoso. Questo brano era incluso in questo concerto dal vivo e ho pensato di farvelo ascoltare dal grande Frank insieme a deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Everything come what may, for the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear. Don't you know, you're a fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. That I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin. Si usava a fare i duetti in quel periodo, ma questo è quello che mi è rimasto più impresso, perché l'entrata di Bono è spettacolare. Restiamo a Parigi perché probabilmente la signora che canterà tra poco e che si chiama Melody Gardot, scusate, ho alzato un po' troppo il volume della cuffia, come sapete io ascolto con voi la musica tutta a palla. Questo brano si chiama From Paris with Love. Melody Gardot, una cantante che mi è piaciuta al primo ascolto. Lovers tucked into a quiet cafe, sat beneath a shade of red. They fall in love like falling out of bed. Half a silhouette of passerbys, have a glass within my hand. Drink to life as if there is no end. Maybe one day I will see you. Maybe one day I will see you soon. With love, my love, a kiss beneath the moon. River wake into the morning light, laser boats around the bend, shimmers once or twice to move this pen. Beauty fades before the mirror's rim, beauty knocks upon your door. Life is leading us to something more. Maybe one day I will see you. Maybe one day I will see you soon. With love, my love, a kiss beneath the moon. Into a quiet cafe, sat beneath a shade of red. They fall in love like falling out of bed. Straordinaria Melody Gardot, From Paris with Love. E adesso un'amica di Melody Gardot, Madeleine Peru. Dance me to the end of love. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. To the end of love, dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone.

little baby. No. Take the sky.